Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buongiorno da Maurizio Melis. È una vera gara quella che si sta aprendo, si sta correndo negli ultimi anni nel tentativo di individuare nuove modalità che rendano sempre più naturale, sempre più semplice, sempre più immediato interagire con la tecnologia. E anche noi stiamo monitorando questo tema e questa sera parliamo di Verso Technologies, che è una startup innovativa nata quest'anno, di base sta a Potenza, specializzata nello sviluppo di sistemi interattivi di ultima generazione, che ha individuato una soluzione semplice e proprio per questo molto interessante per consentire delle nuove forme di interazione basate sui gesti e sui movimenti della mano. Allora diamo il benvenuto al CEO, al General Manager di Verso Technology, Michele Franzese. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi e grazie. Allora, intanto appunto voi partite da questa constatazione che anche noi riscontriamo, cioè c'è una forte crescita di questo mercato dei controlli basato sui gesti. Assolutamente sì, diciamo che sono già alcuni anni, ma c'è un'accelerazione fortissima proprio negli ultimi, direi addirittura mesi, sì, alla ricerca del dispositivo perfetto, che in qualche modo possa andare a sostituire da un lato quelli a cui siamo abituati, mouse e tastiera, ma allo stesso tempo che consenta un'interazione più evoluta. Penso a quelli legati, diciamo, al mondo PlayStation, Wii, eccetera. Penso ad alcuni braccialetti che sono stati fatti. In realtà quello che abbiamo riscontrato è che nessuno di questi è abbastanza invisibile, come dire, da essere utilizzato quotidianamente. È sempre roba abbastanza complessa che va indossata, con cui, diciamo, non ci andresti a fare la spesa. Ecco, quindi abbiamo provato a lavorare proprio su un dispositivo piccolo ma non invisibile. Ecco, e allora descrivicelo questo oggetto, che è un anello, no? Un anello per dominarli tutti, per fare la citazione. Assolutamente sì, ci sfottano in tanti. Immagina. Assolutamente. La forma attuale è un anello, tra l'altro combinabile con più anelli per utilizzare quindi più funzioni contemporaneamente, che può essere sia messo al dito sia indossato invece con un cinturino, con un braccialetto in tutti gli arti. Questo consente ovviamente una forma di interazione molto più evoluta. È un anello che consente appunto di trasformare i gesti in un controller vero e proprio per smartphone e per altri dispositivi. Ecco, cosa contiene questo anello? Dentro l'anello c'è un giroscopio, un accelerometro e un altro microchip che stiamo brevettando, che quindi consentono di avere parecchi gradi di libertà, oltre ovviamente a quattro pulsanti che aggiungono un ulteriore livello di interazione anche per chi non vuole fare troppi gesti, quindi diciamo diventa un vero e proprio telecomando universale. Perfetto, benissimo, che quindi trasmette a un dispositivo con cui può dialogare i movimenti della mano, in modo da associare ad ogni movimento della mano un qualche effetto, un qualche tipo di comando. Ecco, veniamo alle applicazioni. Voi state facendo molti esperimenti. Sì, noi stiamo facendo esperimenti da un lato con, secondo me, quelli che possono essere gli early adopter, quindi per esempio chi fa musica, chi fa danza, chi fa performance, in generale anche gli sportivi, perché riteniamo che queste siano intanto persone che sono disponibili, diciamo, più motivate, diciamo, sì, esattamente, a sperimentare. Per esempio penso a un DJ che voglia arricchire la propria performance accendendo le luci oppure screcciando sul disco. Penso a un chitarrista che voglia cambiare gli effetti e quindi, diciamo, utilizzando proprio volutamente in maniera forte i gesti. Ma penso anche a tutto il mondo del gaming, dove di fatto i giocatori sono coloro che proprio per primi partecipano a tutte le campagne Kickstarter alla ricerca di dispositivi che rendano più efficace, diciamo, la realtà immersiva. E poi c'è tutto il mondo, diciamo, cosiddetto productivity, quello business, dove pilotare un drone, diciamo, disegnare col computer, fare modellazione 3D sono sicuramente attività che si arricchirebbero, diciamo, di un più uno, dando al disegnatore una funzione No? Quindi per esempio se voglio dare una certa forma ad una superficie con questi programmi oggi di modellazione 3D, posso farlo col gesto della mano. Questo, per capirsi, è uno degli scenari possibili di applicazione. Ecco, per quanto riguarda la compatibilità di questo oggetto con gli altri dispositivi, come funziona? Come faccio? È possibile assegnare a un software già esistente un movimento della mano? Assolutamente sì, diciamo che nasce proprio da questa riflessione il nostro controller, per essere universale, compatibile con tutti i sistemi operativi e soprattutto, non essendo legato alla singola piattaforma, io lo posso usare tanto per Word quanto per Spotify, tanto sullo smartphone, tanto sul PC o sul Mac, perché è assolutamente indipendente dal sistema operativo e soprattutto lo porti dove vuoi, lo attivi in un attimo e quindi diventa, diciamo, si candida a diventare, non dico un sostituto, ma un buon compagno di mouse e tastiera nella vita di tutti i giorni, quindi nelle applicazioni di tutti i giorni, come dicevo prima, da Word a Netflix, piuttosto che... Cioè si fa quel giochino che siamo abituati a fare, no? Quando vogliamo assegnare, non so, un tasto, una scorciatoia sulla tastiera, una funzione speciale, si fa lo stesso procedimento, no? Fondamentalmente. Il procedimento è assolutamente quello e noi lo vorremmo rendere tanto più semplice per consentire non solo agli sviluppatori ma a tutti di farsi le proprie scorciatoie e quindi utilizzare il gesto che viene più congeniale per trasformarlo in quello o questo comando. Dunque allora parliamo un po' dello stato dello sviluppo anche della vostra idea imprenditoriale. Intanto c'è in corso un crowdfunding sul portale Mama Crowd che per ora sta andando bene, l'oggetto evidentemente piace, però voi insomma siete lì a Potenza e state giocando da lì una partita che fa tremare i polsi, no? Così il vostro anello rileva anche le vibrazioni, quindi no, voglio dire, ci sono competitor di grandissima taglia che stanno facendo la stessa corsa insieme a voi. Sì, assolutamente sì, ci sono competitor, per esempio penso in Canada un dispositivo che si chiama Mayo, che secondo me sta facendo una bella strada, è diverso dal nostro. Noi siamo convinti, ecco, di essere nel settore giusto al momento giusto, perché c'è una grande rivoluzione in corso, soprattutto grandi budget e grandi finanziamenti per questo tipo di applicazioni. Siamo in Italia, per cui sull'hardware è veramente tosta, se posso dirla tutta, e abbiamo scelto la strada dell'equity crowdfunding per due motivi sostanzialmente. Primo, perché volevamo ricercare anche collaborazioni, per esempio da parte delle grandi imprese che hanno la possibilità di investire nel nostro progetto per poi poterlo utilizzare per esempio nel settore dell'industria 4.0 piuttosto che nel gaming o in tutte le altre grandi, diciamo, industrie che conosciamo, ma poi anche perché volevamo allargare il giro e, come dire, anche sottoporre all'Italia, agli investitori italiani, un settore che è quello della tecnologia, diciamo hardware, che non è molto diffuso. Pensa che in Italia probabilmente ci sono una ventina di startup che fanno, come dire, dispositivi, mentre ce ne sono 2000 o 5000 che fanno app digital, quindi ci siamo scelti un settore abbastanza complicato, però questa cosa, lungi dal preoccuparci, ci esalta, diciamo, ci sfida tanto, e stiamo facendo anche crescere delle competenze a livello locale, perché come puoi immaginare, diciamo, Potenza non è che ci fosse proprio un indotto dell'alta tecnologia, però va bene così, è una bella sfida. Va bene, allora grazie Michele Francese e avanti così. Grazie a voi e andate tutti su Mama Crowd se potete, perché è un progetto molto interessante. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.